si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento del sabato e della domenica a mezzogiorno su Radio 24. Non dimenticate l'altra cronaca, l'altra attualità, quella dove i protagonisti sono i cittadini con le loro piccole, grandi storie virtuose che ci fanno tornare il sorriso. Noi ci abbiamo provato in questo primo anno di programmazione, siamo alla fine dell'anno, 12 mesi, e allora visto che a partire da gennaio faremo anche un concorsone per votare le storie migliori che vi abbiamo proposto in questo primo anno e si vinceranno anche dei premi, cominciamo subito così a riepilogare un po' un'infarinatura di quello che è stato questo anno, giusto i titoli delle notizie che abbiamo affrontato quest'anno. Il parco dell'uditore a Palermo recuperato per iniziativa dei cittadini, la Convert Italia, un'azienda che ha pagato l'IMU per i suoi dipendenti in difficoltà, il giovane inventore che ha inventato l'applicazione smartphone per differenziare i rifiuti, il sindaco di Castellammare di Stabia e il suo impegno contro l'abitudine di far fermare la processione del santo patrono davanti alla casa del boss locale, la guardia di finanza di Padova che ha impiegato cavalli da corsa per vincere dei premi da mettere a frutto nella lotta all'evasione fiscale, questa fa ridere, il buono che avanza, iniziativa milanese contro gli sprechi di cibo, Sessa Aurunca, provincia di Caserta, record di raccolta differenziata in un anno, appaiata con Reggio Emilia che ha chiuso quest'anno l'inceneritore. Tutte buone notizie. Antonietta, la titolare dell'albergo Britannia a Rimini, che apre ogni inverno ai senza tetto che ne hanno bisogno. Potremmo andare avanti così, insomma ci fermiamo qua. Questa era giusto una rinfrescata. Noi abbiamo bisogno anche del vostro supporto su Facebook, si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24. Aspettiamo le vostre segnalazioni, commenti alle storie che avete sentito e ripeto, da gennaio sul sito di Radio 24 si troverà il modo di votare queste storie e di vincere anche qualche premio. Ma adesso andiamo ad iniziare la puntata di oggi. Arrivano i buoni di cuore, perché loro lavorano dentro il carcere cercando di aiutare, di recuperare le persone che si trovano dentro il carcere, ma arrivano i buoni anche perché sono buoni da mangiare i panettoni che vengono fatti dentro il carcere di Padova. Ne parliamo con Nicola Boscoletto del Consorzio Sociale Giotto, che si occupa di questo e anche di molto altro. Nicola, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da questo panettone che è davvero molto buono, io non l'ho assaggiato, magari fatecene arrivare una confezione qua a Radio 24, perché noi andiamo avanti tutto durante tutte le vacanze. Per potervi far avere una confezione dobbiamo rubarla a qualcuno. Perché sono già tutte prenotate, cavolo, sono anche quella del Papa. Prenotate, anche quella del Papa. Ma il Papa quante ne ha prese? Non una, penso. Il Papa ne ha prese 250. Alla faccia, se le ha prese tutte lui. In una forma da chilo e mezzo, fatta solo per lui, per i suoi regali personali, e 12 in una confezione pregiatissima che riproduce le immagini della Cappella degli Scrovegni di Giotto. Ah, vabbè, qui avete proprio superato voi stessi, cioè la Cappella degli Scrovegni, sì. Luogo meraviglioso, quindi la spiritualità, il Papa, il vostro panettone, avete ricevuto un sacco di, insomma, per l'ennesima volta, di segnalazioni, di riconoscimenti, o sono impazziti tutti, oppure fate davvero un prodotto eccezionale. Ci vuoi ricordare alcuni di questi riconoscimenti, poi parliamo anche del progetto che ci sta dietro? Sì, certo. L'ultimo in ordine di tempo è stato qui a fine anno il riconoscimento di Sua Eccellenza Italia 2012 per la pasticceria del carcere con in testa il panettone dal Gambero Rosso. Abbiamo avuto soprattutto questo grande riconoscimento da questa giuria popolare di 500 a Taste, a Pitt Immagine. Sì. Che il nostro panettone Al Kabir, che è la novità assoluta a Natale 2012, è visto essere il primo assoluto, il più votato. Com'è che ha anche un nome il vostro panettone? Allora, è la linea dei dolci di Giotto, sì. In onore chiaramente non alla cooperativa ma al pittore, e c'ha tutta una serie di prodotti, dal panettone alla colomba, ai biscotti, ai grissini, altre tipologie di dolci. Insomma. Come si arriva però al prodotto finito? Qua proprio la domanda viene da sé. un progetto che vede impegnato il consorzio Giotto da molto tempo. Da quanto tempo voi lavorate anche dentro il carcere? Noi abbiamo iniziato questa avventura all'interno del carcere nel 91. Quindi siete dei pionieri forse in Italia da questo punto di vista? Ma diciamo siamo tra i primi dopo l'abbandono delle carceri da parte delle imprese italiane a fine anni 70, inizio anni 80. Tanto per fortuna Pannella ha sospeso lo sciopero della fame, perché a 82 anni e della sete era davvero in condizioni critiche. Ha voluto sollevare l'attenzione su questo tema, di cui forse alla gente interessa poco, a meno che uno non abbia un parente che è passato o si trova in carcere, ma sono naturalmente una minoranza. Pare che, l'ha detto anche chiaramente il ministro Severino, che questo sia un tema che non ha maggioranze in Parlamento, non è un tema da maggioranze, però la sovrappopolazione carceraria è questo sì un problema, e voglia te a metterli a lavorare sui panettoni, ma non basta, no? No, ma è un problema ben più serio, più grave, che parte da lontano. Qui non c'è nessuno che possa dire non c'entro. Ecco, voi però, fate la vostra parte, diciamo, in una situazione di normalità questo potrebbe anche bastare a ad evitare, per esempio, diciamolo chiaramente, questo è un concetto centrale, le persone che partecipano a questi progetti, è verificato, controllato, sperimentato, poi hanno minore recidiva, cioè quando escono sono più socializzati, diciamolo come vogliamo, recuperati. Cioè, lei questo lo può testimoniare? Assolutamente, da 22 anni la recidiva, che oggi quella ufficiale è del 68%, ma quella reale si attesta nel 90%, come un po' in tutto il mondo e in Europa, che è un dato impressionante, che è un dato all'interno del carcere in misura alternativa, arriva al fine pena che delinque solo nell'1% dei casi. Cioè, adesso sono ovviamente dati che uno può prendere anche col beneficio di inventario, però sono dati. No, perché sa, faccio la parte del diavolo, perché conosco anche gli ascoltatori e alcune posizioni che ci sono, facili, no, di qualunquismo, eccetera. Però avete sentito, si passa dal 68% di recidiva, cioè si esce dal carcere e si torna a commettere reati, fino a reati peggiori di quelli reati peggiori, ma fossero anche uguali, questo certo. Già basterebbe, fino al 90%. Chi invece partecipa a questi progetti di recupero, vuoi perché è già motivato prima, vuoi perché si motiva per strada, scende drasticamente. Quindi già questo è una notizia strepitosa e dovrebbe spingerci a livello di collaborazione. Io so che il sindaco di Padova è molto impegnato su questo, voi siete fortunati. Ci sono altre realtà forse che sono più indietro. Si stanno facendo passi avanti in 30 secondi, allora, perché poi dobbiamo chiudere. Il mondo sociale, la società, i passi li sta facendo, o meglio li vorrebbe fare. Occorre che lo Stato ritorni dentro la Costituzione, la legalità, e permetta questi percorsi di recupero. L'attuale ministro Severino, da questo punto di vista, ha espresso volontà chiare, sì, umanità e soprattutto. Però, ahimè, la legislatura sta per finire, anzi, il governo è caduto praticamente. Quindi, il ministro Severino, chissà chi ci sarà, il prossimo ministro della giustizia, quale posizione avrà. Comunque, un po' di continuità sembra di capire che ci sarà, e chissà se su questo tema proprio, che sarebbe importante. Noi continuiamo a aspettare, se non questo panettone, la colomba, almeno ci prenotiamo per Pasqua. No, ma insomma, lei all'inizio ha detto arrivano i buoni. Sì. Allora, buoni sono solo i prodotti che facciamo. Dopodiché le persone non è che si possano dividere in buoni e cattivi. No, ma è buoni, eravate voi che lavorate su questi progetti. No, le persone coinvolte possono essere buoni e cattivi, non interessa. No, era uno scherzo. Ci fermiamo qua, grazie, e lo ringraziamo molto per essere stato con noi. Un saluto a tutti voi. E buon Natale a Nicola Boscoletto del Consorzio Sociale Giotto, che contribuisce a creare questi panettoni eccezionali che vanno a ruba. Pensate, il Papa ne ha ordinati 250. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dietro un'immagine io non ci sto e non lo desidero. Un vestito buono, un saldo in più. E non mi vergognerò quando mi vedrai. Col giubbotto rotto già saprai che soldi non ne ho e non ne avrò mai. Se anche voi vi trovate a condividere questo punto di vista, questa prospettiva, soldi non ne ho, c'è una cosa a cui potete anche decidere subito di non rinunciare mai, e sono i viaggi nei bed and breakfast, perché nasce barattobb.it, un sito, un nuovo sito che, a dire la verità, è l'estensione di qualcosa che c'era già, ma da una settimana all'anno adesso diventa tutto l'anno in vacanza gratis col baratto nei bed and breakfast d'Italia che aderiscono a questa iniziativa. Ne parliamo con Massimo Soldi, buongiorno. Sì, buongiorno. Cognome profetico in questo caso, devo dire. Ma speriamo, fino ad ora non ha funzionato moltissimo. No, esatto, non molto, perché voi siete tra i promotori proprio del baratto, quindi di soldi non ne mettiamo in mezzo. Titolare del Bed and Breakfast, il Vichiaccio di San Casciano, siamo in provincia di Firenze, tra l'altro anche insomma nella zona del Chianti, quindi non è roba da poco. Come il cuore del Chianti, sì, esatto. Non è una robina da poco. Immagino il paesaggio, la meraviglia lì da voi, questo adesso ce lo racconterà che cosa vede dalla finestra quando si sveglia ogni mattina nel suo bed and breakfast. Che succede? Da iniziativa settimanale, questa del bed and breakfast che offre possibilità di ospitalità sulla base del baratto diventa una cosa valida tutto l'anno, una bella novità. Sì. Esatto, sì. Noi, a dire il vero, è il primo anno che aderiamo all'iniziativa, l'abbiamo fatto con grande entusiasmo, ci sembrava una cosa veramente molto interessante, organizzata da questo circuito di bed and breakfast di cui facciamo parte anche noi, è stata una bella esperienza. E quindi questa, diciamo, questa bella esperienza ha fatto sì che abbiate deciso di aderire anche all'estensione di questa cosa qua, fatto più episodico, perché sono 4 anni credo che si festeggia la settimana del baratto, a passare invece a una possibilità di farlo tutto l'anno. È un bel salto, non avete paura di perdere un po' di introiti in moneta sonante? Ma non lo so, vedremo, spero di no. Credo che lo spirito dell'iniziativa comunque meriti di essere valorizzato, perché comunque anche per esempio nell'ultima occasione a cui abbiamo partecipato abbiamo avuto comunque un rientro anche economico di altra natura, non in il denaro ma in servizi, in proposte comunque interessanti ma che hanno un loro valore. Ecco, per esempio, queste proposte di che tipo sono? Cioè voi che cosa accettate? Cioè, non so, uno che viene lì con un cappotto usato piuttosto che con... No, adesso ride perché no, magari un cappotto di cashmere che vale nuovo 3.000 euro glielo porta, lei un pensiero ce lo fa, o forse no, se ne frega, vuole cose più concrete, più spendibili. Ma noi siamo aperti a tutte le possibilità. Diciamo che in questa nostra prima esperienza abbiamo ricevuto le proposte più bizzarre. Addirittura una coppia di ragazzi giovani, credo, gestori di una pompa di carburante, di benzina, ci ha proposto una tanica di benzina. Ci hanno spiegato che il massimo trasportabile per la legge italiana è 25 litri e quindi ci hanno proposto per una notte una bella scusa per non portare di più, dice sono 25, sì. Io di più non posso portare e poteva portare 2 taniche forse, no? Forse sì. E avete accettato? Abbiamo accettato, sì. Purtroppo poi la cosa non si è concretizzata perché il sabato in cui loro sarebbero dovuti venire erano impegnati, insomma non potevano venire, quindi la cosa poi non ha avuto un seguito. Ecco, però ma siamo rimasti sì. In contatto. E quindi magari ci saranno sviluppi in futuro. Secondo la vostra esperienza, le persone che si affacciano come utenti a questa cosa qua, cioè alle vacanze in baratto, sono attratte proprio dalla questione del risparmio oppure dal fare anche un'esperienza diversa, mettersi in gioco, dover discutere con le persone, perché poi immagino che ci si incontra, ci si conosce, ci si guarda in faccia, è anche questo, no? Sì, secondo me ci sono entrambe le categorie. Abbiamo avuto proposte da persone che l'hanno proprio candidamente ammesso di attraversare un periodo non dei migliori dal punto di vista della disponibilità economica, di voler comunque concedersi una vacanza e quindi di essere disposti a contraccambiare la nostra ospitalità con qualunque cosa fosse nel loro potere, quindi un aiuto nei campi piuttosto che il taglio della legna o i lavori di casa, insomma. Altri che invece l'hanno fatto con spirito più giocoso, tra l'altro abbiamo fatto poi uno scambio con un videomaker milanese che ha trascorso 2 giorni lì da noi, ha realizzato un video molto divertente sulla nostra struttura, sì. Su di noi, ci ha intervistati E in questo caso, insomma, lo spirito era più quello del gioco e della conoscenza reciproca. Tant'è che tra l'altro ne è nata anche una, credo, un'amicizia, insomma, ci stiamo Vengono fuori delle cose inaspettate, semplicemente partendo dal punto di vista che si può rinunciare alla moneta sonante per avere qualcos'altro, comunque di utilità, di spendibilità e in alcuni casi anche non di utilità come l'amicizia, ma di in termini di relazioni, e questo può sempre tornare utile. Va bene, insomma, questo è l'esordio per ora, il sito barattobb.it, dove si possono trovare le strutture che tutto l'anno, da questo mese di dicembre in poi, aderiscono all'iniziativa. Grazie Massimo per essere grazie stato con noi, titolare del Vicchiaccio di San Casciano in provincia di Firenze, un posto immaginiamo meraviglioso. Adesso restiamo in tema natalizio e andiamo a vedere se sotto le feste c'è qualche cambiamento da registrare per quanto riguarda i comportamenti dei commercianti su scontrini e fatture. Nulla tenente, lei che è convinto che uno scontrino sia un incidente di poco conto quando ti rigano il macchinino che costa circa 90.000, però lei dice che hai conti in rosso. Minchia nulla tenente, una rivisitazione di Elio, della nota canzone Minchia signor tenente di Faletti, perché l'argomento lo abbiamo già introdotto. E allora salutiamo Marco Vettorello, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, del sito evasori.info, uno degli animatori, dei promotori, perché so che c'è anche un velo di anonimato su di voi. Sì, rimangono ancora anonimi alcuni, sia l'ideatore che alcuni sviluppatori all'interno del nostro gruppo. Per paura ovviamente di ritorsioni, no, ma non si scherza. Perché perché diciamo anche che cosa c'è su questo sito per chi non lo sapesse, non è un'iniziativa di adesso, è un'iniziativa che già da un po', da quanto tempo siete presenti? L'iniziativa è iniziata ancora nel 2008, ecco, l'idea di un professore italiano che lavora in America, sì, e praticamente è una piattaforma che permette la segnalazione in forma totalmente anonima di evasione e tentata evasione fiscali. Cioè quando ad esempio andiamo in un esercizio commerciale e sì, non ci mettono lo scontrino, non vogliono emetterlo. Ecco. Quello che possiamo fare noi è proprio sì, permettere ai cittadini direttamente di segnalarci l'evasione. Ecco, io dico anche visivamente, per chi non l'ha mai visitato il sito, quello che si vede è una mappa in aggiornamento continuo dove ci sono i fumetti che ci dicono in quel punto, in quella zona, in quella città, in quel quartiere è stata denunciata da qualche consumatore il mancato emissione di uno scontrino, di una fattura per tot euro. Quindi si ha proprio una mappa in costante aggiornamento, naturalmente poi dipende dagli aderenti al sito, da chi partecipa a questa iniziativa, la completezza di questa mappatura, però insomma, tant'è, è una fotografia da un certo punto di vista dell'evasione fiscale in Italia. In questi giorni di spese folli avete registrato un maggiore e minore accesso sul sito? Come sta andando? Fortunatamente siamo in calo, anzi devo dire in questo periodo, fortunatamente. Come confronto all'anno scorso, che possiamo dire proprio nel periodo diciamo di fine dicembre, inizio di gennaio, quando ci sono stati i blitz a Cortina, che abbiamo ricevuto un picco enorme di segnalazioni, quest'anno pian pianino sta scendendo questa curva. È calata la paura forse? Cioè, quindi... Forse, o è calata la paura oppure c'è un calato l'interesse. No, è possibile. Oppure sono aumentati gli scontrini. Esatto, questo è anche molto probabile, effettivamente. Sì. Ci speriamo. In effetti, la nostra speranza è proprio quella di vedere diminuire sempre di più le segnalazioni nel corso degli anni. Ma questa vostra iniziativa avrà un seguito, uno sviluppo, oppure a un certo punto vi fermerete qua? No, sicuramente. Già quest'anno, sì, a partire da agosto, sono partite anche delle applicazioni su smartphone, quindi la possibilità di segnalare direttamente quando si è dall'esercizio commerciale, effettivamente. Mm. E dopo, pian pianino, stiamo cercando di integrare qualche nuova funzionalità all'interno e cercando di dare anche informazioni ai cittadini su quelle che sono effettivamente gli esercizi commerciali che devono ad esempio emettere lo scontrino, quindi cercare di dare una sorta di cultura sulla legalità fiscale, che è una cosa che diciamo che è l'unica cosa che al momento possiamo dare noi, cioè non possiamo intervenire sulle istituzioni, ma quello che possiamo fare è cercare di creare questa cultura sulla fiscalità legale, effettivamente. E dopo cercheremo adesso nei prossimi periodi anche di dare come già le applicazioni stanno facendo, da una sorta di premialità, di onorificenza ai cittadini che segnalano. Sì, e ci sono tra l'altro alcune iniziative in questo senso, devo dire. Monti ha detto più volte che l'evasione è la questione sociale italiana. Qualcuno contesta i metodi che sono stati usati, quelli dei blitz, però io invece credo che anche a livello simbolico abbiano dato una bella scossa a questa questione. E lo diciamo subito, pagare le tasse si può, si deve fare, perché altrimenti diventa una concorrenza sleale tra l'altro tra le imprese. Però voi come vi sentite sulle vostre spalle il peso di quelli che dicono beh, ma insomma le tasse sono troppo alte, non ce lo possiamo permettere, eccetera eccetera? Questo è un problema veramente discusso proprio anche tra i commenti tra le applicazioni eccetera. Ci sono tantissimi commenti di questo genere. Chiaramente noi cerchiamo di fare, di dare, diciamo, un supporto anche, soprattutto anche probabilmente alle statistiche, che magari non sono sempre significative come quelle, cioè non date risposte morali, filosofiche, ma date questa possibilità, questo supporto tecnico, che è una fotografia, come dicevamo, evasori.info, di quelle che sono le possibilità, i possibili evasori in quel momento lì. Va bene, insomma, mi sembra anche giusto che non vi sbilanciate troppo in queste questioni, che poi alla fine interessano fino a un certo punto. Ci fermiamo qua, grazie per ora, Marco Vettorello, evasori.info. Abbiamo visto che in queste ore precedenti al Natale sono diminuite le segnalazioni, segno che forse la luce dei riflettori ha spinto più persone a fare gli scontrini, segno che i blitz sono serviti a qualcosa. Insomma, sarà quel che sarà. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, si può fare oggi puntata da sapore ovviamente natalizio. Siamo partiti proprio da un sapore, quello del panettone fatto nel carcere di Padova, un'iniziativa del consorzio sociale Giotto, un'iniziativa tanto lodata e premiata. Pensate che il Papa ha ordinato più di 200 di questi panettoni, sono andati a Ruba, una bella iniziativa. Poi vi abbiamo dato anche un suggerimento per le vacanze, durante questo periodo di festività oppure anche più avanti, potete andare nei bed and breakfast che aderiscono al sito barattobb.it, che proprio da questi giorni è passato a essere un'iniziativa durante una settimana dell'anno a tutto l'anno. Andate, cercate i bed and breakfast convenzionati, potete andare proponendo degli scambi, dei baratti, insomma, e quindi senza spendere una lira. E anche questa era un'idea per queste vacanze. Adesso, tra poco, con il prossimo ospite. My candidacy, I'd appreciate it if you vote for me. I want to be vice president. Vote for me. If I was vice president, know what I'd do? Pretty much anything I wanted to. Vote for me, viene detto in questa canzone, perché il voto è al centro della prossima storia. È un sito sul quale si può andare e votare per quelle aziende, per quei liberi professionisti, adesso capiremo, che godono di credibilità perché sono stati sperimentati da altre aziende. Insomma, un social network sulla affidabilità tra imprese. Qualche tempo fa, quando facevamo l'avviso ai naviganti, lo avremmo messo sicuramente tra le segnalazioni positive, anche, perché no, in vista di una ripresa economica, perché avere clienti e fornitori affidabili che pagano, tanto per dire le cose come stanno, alla fine dei lavori è qualcosa di molto utile. Ne parliamo con uno dei soci e fondatori di questa ottima iniziativa, Andrea Ragno. Buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Allora, io dico solo il sito, poi spiega tutto lei, perché io ho goffamente cercato di descriverlo, ma è un'idea nuova e positiva, prova spiegata. Il sito si chiama virtubuzz.com, virtu come virtù, buzz come buzz. Adesso lei ci spiegherà perché questa scelta di queste parole, .com. Che succede, come funziona? Sì, allora, virtubuzz lo possiamo definire il primo social network reputazionale per aziende. È un servizio riservato alle aziende che è nato circa un anno fa e nasce dalla volontà di creare, diciamo, una community di aziende virtuose, infatti da lì il nome Virtubuzz, cioè il buzz virtuoso. Siamo partiti da una considerazione che è quella che ogni azienda fa ogni giorno il passaparola sui propri clienti. sì. Per cui dal piccolo professionista che nel momento in cui deve lavorare con qualche azienda cerca referenze attive per capire se l'esperienza poi è un classico, insomma, cioè, come ti sei trovato, esatto. Quello è bravo, non è bravo, sì, però alla fine mi ha creato un problema, eccetera. Quindi questo è il veicolo normale, il passaparola. Perfetto. Però la cosa interessante, ecco, che è la prima community dove sono i fornitori a votare i clienti e non viceversa. Questa è un po' la novità. Noi votare dunque i clienti chiaramente sul lato dell'affidabilità. Siamo partiti sul concetto dunque delle 5 stelle, come concetto di rating, sì. Che si applica poi a tantissimi contesti. Non è che avete qualche parentela o affinità col movimento quello famoso, no? Perché sai, queste 5 stelle girano, non so. Non vorrei che ci sarebbe nulla di male. 5 stelle, ecco. Sì. Siamo partiti dalla considerazione che c'è per le aziende la necessità di portare in rete, sì, quello che già ogni giorno fanno, cioè il passaparola. Abbiamo ricreato con Virtubad una piattaforma dunque dove è possibile da un lato votare, dal punto di vista dell'affidabilità, dall'altro chiaramente essere votati. E alcune regole fondamentali: non esiste anonimato, per cui per aderire al servizio e partecipare bisogna dichiararsi come azienda. Sì, quindi non è come quei siti tipo, che ne so, TripAdvisor, ho detto un nome, non vorrei fare pubblicità, però quei siti dove sì, fanno piccole recensioni, però basta registrarsi con una mail, uno può essere chiunque. Perché no. Poi naturalmente hanno un'affidabilità, per amor del cielo, anche quelli, però qua bisogna proprio registrarsi con un pochino più di struttura, se ho capito bene. Noi abbiamo un criterio di verifica molto, molto severo, di conseguenza eventuali aziende non veritiere vengono prontamente eliminate. E la cosa importante, appunto, dicevo, non esiste anonimato e si può votare una sola volta un'azienda cliente con la quale si è avuto un'esperienza. Il voto si può modificare, come esattamente l'opinione che si ha verso un'azienda può variare nel tempo. La cosa interessante è che la somma delle opinioni dei fornitori verso una determinata azienda porta a creare un social rating, che è una media, che è un indicatore interessante perché corrisponde esattamente a quello che altre aziende pensano, per una scala da 1 a 5, sì, su una certa azienda. E la cosa interessante, sì, è che abbiamo fin da subito cercato di spingere affinché non diventasse una sorta di blacklist, sì, ma invece con l'obiettivo di valorizzare le centinaia di migliaia di aziende che lavorano bene, che hanno, diciamo, una filosofia di lavoro positiva, che rispettano gli accordi. Questo è interessante, perché volendo fare un paragone con altri tipi di siti di cui abbiamo parlato prima, ci sono siti per esempio sulla questione dell'evasione fiscale, che è parente, anche se vogliamo, di quello di cui vi occupate voi, anche se non c'entra nulla, dove si denunciano quelli che non pagano le tasse. Ci sono invece, sono esperienze più recenti, altri siti nei quali si mettono in evidenza quelli che fanno gli scontrini, fanno le ricevute, le fatture, quindi la parte più positiva. Voi le tenete insieme tutte e due, quindi ci tenete a che la pagella possa essere tutta negativa ma anche tutta positiva. La filosofia, noi crediamo questo, che essere virtuosi come cliente oggi, sì, paghi molto, rispettare gli accordi e avere un comportamento… È un investimento anche che si fa nel futuro. In questo primo anno che siete all'opera, avete già dei numeri, avete già qualche piccola statistica, qualche elemento che si lega, per esempio, non so, all'andamento della crisi o cosa? Cosa avete fotografato in questo periodo? Sì, chiaramente questo primo anno è servito anche per ricevere molti feedback e per testare la piattaforma. Stiamo raggiungendo, e penso che raggiungeremo per fine anno, i 10.000 iscritti. E di questi circa su tutto il territorio nazionale, giusto per capirsi? Sì, al momento sì, abbiamo benissimo in San Marino e abbiamo in previsione, appunto, di inserire già dal 2013 altri stati europei. Okay. Ogni azienda è identificata dalla partita IVA, di conseguenza è un valore univoco, non è possibile avere duplicati. E abbiamo avuto un ottimo riscontro con una serie di recensioni anche su riviste. Abbiamo partecipato allo SMAU nell'area startup, l'abbiamo presentata. E inoltre siamo anche presenti in nomination al premio WW del Sole 24 Ore, visto che allora, siamo di casa, insomma, ecco. Ditelo, sì, certo. Per cui votateci. Anzi, ci accodiamo a questo invito, votatela, perché è una bella iniziativa, altrimenti non vi avremmo ospitati qua. Che dire, Andrea Ragno, insomma, mi pare che Abbiamo detto tutto per il momento. Ricordiamo il nome del sito virtubuzz.com. Ci si registra. Quanto dura la procedura? È una cosa complessa? La registrazione è di una semplicità disarmante. Sì. Chiaramente poi vengono fatti i controlli sulla veridicità dei dati inseriti per poter fare in modo che la qualità delle informazioni che uno può ottenere sia alta. Di conseguenza, ecco, vogliamo solo aziende vere e che si decidano di mettersi in gioco. Il 2013 sarà l'anno della reputazione online, di conseguenza, ecco, noi diciamo, è meglio investire, sì. Ogni azienda deve investire e deve investire in reputazione e chi deve trovarsi insomma dei partner commerciali per lavorare sappia che può controllare. Esatto, prima può controllare, questo è un modo anche per evitare di andare incontro a brutte situazioni, per risparmiare, e visto che in questi tempi di crisi i conti bisogna farli ancora più stretti, insomma questo è uno strumento in più che viene incontro alle aziende. Se bravi. Conosci meglio i tuoi clienti, migliora il tuo lavoro. Questo è il claim, potremmo dire. Benissimo, grazie Andrea Ragno di virtubuzz.com, ripetiamo virtubuzz con la U.com, se vi siete incuriositi e volete andare a fare una visita su questo sito oppure registrarvi oppure vedere quello che c'è. Si può fare, cronache da un paese migliore. Central Park in questa cattivante interpretazione dei Mr. Hudson, semplicemente perché ci siamo accorti leggendo questa notizia che riguarda niente poco di meno che San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, c'era una similitudine con il Central Park di New York. Anche lì c'è un grandissimo parco, abbiamo letto la notizia, al bando il fumo in questo parco. Una notizia che detta così può sembrare anche una cretinata, ma in realtà già di per sé non lo è. Si inserisce in un progetto ancora più vasto in una città che, tra l'altro, salutiamo il sindaco Marco Macciantelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Città di San Lazzaro, che è insomma un agglomerato urbano considerevole, perché parliamo di quanti abitanti? 31.189. Insomma. E tra l'altro siete spesso all'avanguardia, non mi faccia star lì a fare i complimenti per come gestite la cosa pubblica, insomma, da quelle parti, però continua a essere un punto di riferimento. Però andiamo intanto alla notizia e poi allarghiamo il raggio, perché parliamo di un progetto sulla salute dei cittadini. Bando il fumo nel parco di San Lazzaro. Dunque, Central Park è una suggestione molto simpatica. Guglielmo Marconi, che è un nostro concittadino della provincia di Bologna, di famiglia dell'Appennino, poi come sappiamo si insediò a Pontecchio Marconi, che ha preso la sua denominazione in onore di quello che ha fatto, stabilì la prima connessione senza fili tra il nostro territorio e gli Stati Uniti. Io più modestamente, però, piuttosto che evocare una grande capitale globale come New York, parlerei di San Lazzaro nel senso delle nostre peculiarità. Sì. Come spiega il toponimo, San Lazzaro viene da un lazzaretto che era posto a est della città di Bologna, orientato ad ospitare chi avesse bisogno di cura, di assistenza, di terapie, e questa attitudine ha sviluppato un'evoluzione civile che vi è rimasta dentro, vi è rimasta addosso. Ha reso, diciamo, un bene pubblico, la salute, una comunità di salute pubblica. Questo ha a che fare anche con alcune figure che hanno animato la nostra cultura locale, penso dal punto di vista della prevenzione, della ricerca oncologica. Dal punto di vista della prevenzione voglio ricordare il professor Maltoni, che ha lasciato la sua casa proprio qui a Ramazzini, a Salato di Savena. Insomma, noi comunque ci terremmo a impostare qualche soluzione che sia capace di costruire stili di vita più orientati alla salute. Ecco, per esempio, facciamo subito qualche esempio. Il progetto si chiama San Lazzaro Città della Salute. Io sono partito da questa questione del fumo nei parchi. Facciamo qualche esempio, andiamo concretizzando. Bisogna prima di tutto dotarsi di un pensiero prima di agire. Noi, il nostro pensiero è questo: prima di tutto chi fa governo locale si confronta ogni giorno con un sondaggio che non costa nulla, è assolutamente gratuito, ma sono le attese, le speranze, talvolta le disillusioni della cittadinanza, rivolte incessantemente, in tutti i modi, soprattutto oggi con i colloqui diretti, gli incontri casuali, o ovvero anche per email, sms, telefonate, eccetera. è presente in tutte le comunità, io credo, una grande attesa di qualità della vita, sì, di innalzamento anche del rispetto delle regole. Questo non pregiudica affatto la libertà di ciascuno, che non è in discussione. Sì, perché nessuna... qualcuno mette un po' in contrasto a volte il fatto che il comune o lo Stato si occupi poi della salute. Ha a che fare con la responsabilità, sì, e quindi ha a che fare con il rispetto degli altri. E, diciamo, dopo aver verificato queste richieste che sono venute dai cittadini, abbiamo cercato di impostare qualche soluzione sviluppando anche un pensiero, cioè che cos'è il luogo pubblico oggi? È solo quello chiuso dentro gli uffici? No, forse il luogo pubblico sono tutte le circostanze in cui si dà un'interazione nella questione che ci interessa tra fumatore e non fumatore. Sì. Lì occorre fissare un punto di composizione tra la libertà e il rispetto degli altri. Ecco, però ci dia anche qualche misura così più concreta, terra a terra, perché siamo anche un po' curiosi, insomma. Noi dunque concretamente abbiamo predisposto, dopo un po' di studio della cosa e relazione con gli attori sociali, penso alle organizzazioni sindacali, penso alle associazioni di categoria, a qualche figura rappresentativa del nostro tessuto civile, attraverso incontri, abbiamo predisposto un atto che naturalmente, dando motivazione e giustificazione di questo, immagina, con un'ordinanza, immagina di fissare nuove regole ai sensi delle quali in tutte le aree verdi del territorio comunale siano garantite determinate condizioni, in particolare di non fumare nei parchi giochi comunali, cioè di non entrare in un contatto, di non portare a contatto dei bambini il fumo passivo, sì, nei giardini, nei parchi pubblici, nei cortili delle scuole, degli asili nido, negli spazi pertinenziali degli edifici pubblici e delle strutture sanitarie, e anche, questione naturalmente che ha un certo impatto sull'attività commerciale, comprensibilmente, ma da questo punto di vista ci siamo anche cautelati nel fare qualche passaggio con quel mondo, acquisendo una disponibilità a valutare questa cosa, nei gazebo e nei deor, che oggi stanno diventando dei luoghi dove si respira intensamente. Cioè, quindi non si fuma neanche nei gazebo, nei deor, dove si prendono i gelati, quelle dove, cose. Dove sono chiusi. Ecco. No. Diciamolo, perché così magari qualcuno passa a San Lazzaro. Quali sono le pene, cioè le sanzioni, insomma, ma come dunque, si fa a disincentivare? Le sanzioni variano, però la sanzione ovviamente deve essere prima di tutto un deterrente. Noi non dobbiamo vivere però, la sanzione. Senza sanzione è un non atto funziona. Finale sì. Che può intervenire, ci si augura che non intervenga, comunque è in uno spettro compreso tra i 25 fino ai 500 euro accidenti, di contravvenzione, senza nessun rilievo di altro tipo, di altra natura. Mettete dei bei cartelli, perché sa, siccome siete quelli che sperimentano, uno viene da fuori, non lo sa, arriva lì, si becca 500 euro di multa. No, ma lo dico per... È nato questo dibattito che sta crescendo e siamo grati anche agli organi di informazione, voi compresi, che ne state parlando. Noi ci vogliamo dotare prima di tutto di una campagna informativa che abbiamo già predisposto attraverso i nostri uffici, anche qui senza costi per l'amministrazione comunale, se non la nostra capacità, per quanto modesta, di fare comunicazione pubblica, ma siamo abbastanza attrezzati da questo punto di vista, con il nostro ufficio stampa, abbiamo una web TV, stiamo predisponendo delle cose che possano servire la cittadinanza da questo punto di vista, e solo dopo interverrà l'ordinanza, ancora non è stata promulgata, perché intendiamo fare le cose ovviamente con ordine, prima l'informazione e poi la regola, e solo... Quindi siamo ancora in una fase, diciamo, in cui si sta impostando la discussione. Noi però abbiamo per ora esaurito il tempo che avevamo a disposizione per spiegare questa novità che viene da San Lazzaro di Savana, la città della salute. Però, insomma, quando farete dei passi in avanti, quando l'ordinanza diventerà effettiva, eccetera, eccetera, Sindaco Macciantelli, noi siamo qua perché l'iniziativa ci piace e ci sembra giusto condividerla anche con gli ascoltatori. Che dice? Ci risentiamo più avanti? Ma volentieri, io sono a disposizione, ringrazio voi dell'attenzione che avete avuto, auguro a tutti una buona festività. Ecco, fermiamoci qua, grazie per ora al sindaco di San Lazzaro di Savana, Marco Macciantelli, e io ringrazio anche Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno da Alessio Maurizi, un saluto, l'augurio di una buona giornata.